sul quale è invocato il mio nome. Si umilia, prega e cerca la mia faccia e torna indietro dalle sue vie malvagie, dalle sue vie malvagie. Io ascolterò dal cielo. Cerca la mia faccia e torna.